Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Can everybody find me? È impossibile non riconoscere queste note. Sono quelle di Somebody to Love dei Queen e risuonano maestose davanti a 72.000 persone il 20 aprile del 1992 allo stadio di Wembley, Londra. È qui che il mondo della musica si raduna in onore di una star scomparsa da poco, cantando e suonando per renderle un estremo omaggio. Freddie Mercury, storico leader dei Queen, è scomparso solo da una manciata di mesi. Ha lasciato un vuoto enorme nei cuori dei fan e sul palcoscenico. L'unico in grado di colmarlo, seppur parzialmente, sembra essere George Michael, la cui voce sentite intonare con emozione le parole di questo pezzo. L'ex cantante degli Wham, a detta sia del pubblico che di moltissimi esperti del settore, sarebbe l'unico possibile interprete capace di rendere davvero onore a una delle più grandi voci degli ultimi 40 anni di storia della musica. Se il concerto di Wembley di quell'ormai lontano lunedì di Pasqua del 1992 si è rivelato un così grande successo, è stato anche grazie alla voce di George Michael. Ma il merito più grande va proprio alla musica di Freddie Mercury. Somebody to Love, in particolare, è uno dei molti brani dei Queen interamente scritti e musicati da lui. Una canzone struggente, un disperato grido d'amore travestito da coro allegro e spensierato. Un uomo si alza un mattino e si rivolge a Dio, chiedendogli di poter avere qualcuno da amare. Più semplice di così. Freddie Mercury, la star, il divo capriccioso dipinto dalla stampa come un'eterna caricatura di se stesso, sapeva essere un uomo molto lineare, senza tanti fronzoli. Sapeva quali erano le cose che contavano. Io non voglio mica cambiare il mondo. Se devo essere sincero, la cosa più importante per me è essere felice. Io ho voglia di divertirmi in tutte le cose che faccio. E certo, la musica per me è importantissima, è tutta la mia vita. Andrò avanti finché potrò, finché la gente continuerà a comprare i miei dischi. Ma la fama che deriva da questo, quella non è importante. Essere felice è quello che conta. Poi è ovvio che se anche sono felice, se sto bene, beh, questo si vede anche nel mio lavoro. Quando smetteranno di comprare i miei dischi, saluterò tutti e diventerò un fumettista? Che ne so. Musicista o fumettista, poco importa. In ogni caso, Freddie Mercury non avrebbe potuto essere nient'altro che un artista nella sua vita. Zanzibar è una magnifica isola situata a una quarantina di chilometri dalle coste della Tanzania. Un luogo dove si intrecciano storie di dominazioni coloniali, di spezie, di spiagge bianchissime, di vegetazione e fauna straordinarie. E proprio qui, in questo stupefacente angolo del mondo, lontano dai futuri fasti dell'Olimpo del rock, che nasce Farouk Balsara, colui che un giorno non troppo lontano diventerà Freddie Mercury. Farouk era un nome molto alla moda tra noi parsi. Io volevo che mio figlio avesse un bel nome, un nome importante. I Balsara sono una famiglia di origine parsi, comunità di ascendenze indiane dedita allo zoroastrismo. Il padre lavora per il governo britannico e garantisce al suo nucleo familiare un ottimo tenore di vita. Farouk è un bambino felice, non gli manca proprio niente, i genitori assecondano volentieri la sua passione innata per la musica. Ce ne parla Jer Balsara, madre di Farouk. Gli piaceva ascoltarne moltissima. Non importava che fosse indiana, folk oppure inglese. Metteva su dei dischi e iniziava a cantare. Era onnivoro, gli piaceva tutto. Aveva dei gusti molto variegati. Mustafa, salam alaikum. Le primissime influenze musicali già complesse ed eterogenee saranno un giorno ben visibili nella discografia della rockstar che sarà. L'attitudine curiosa di Farouk, sempre molto aperta nei confronti di qualunque tipo di musica, sembra scontrarsi con la natura profondamente timida del suo carattere. Eppure lui, quando si tratta di cantare e di esibirsi in pubblico, non ha nessuna esitazione. La timidezza svanisce come d'incanto. Resta solo la voglia di mettersi in mostra, di osare, a beneficio della felicità altrui, oltre che della propria. A volte ci capitava di andare a delle feste o a qualche cerimonia e capitava che qualcuno gli chiedesse di cantare. A lui piaceva da impazzire. Si sentiva così orgoglioso di rendere gli altri felici grazie solo alla forza della sua voce. Era così già a quell'età. Non è sempre facile restare al passo con quel che accade nel resto del globo, in quel di Zanzibar. La musica, le riviste, i film, le mode arrivano in ritardo rispetto ad altri luoghi. Un bel paradosso per una delle future icone del mondo occidentale. Farouk, in ogni caso, sta per essere mandato a studiare in collegio, lontano dall'isola dove è nato, in India. Una scuola prestigiosa, come si addice a un giovane della sua estrazione sociale. Nel 1955, quando ancora non ha compiuto 9 anni, dopo 60 lunghi giorni di viaggio, Farouk arriva a Panjani, vicino a Mumbai, in India, dove per i successivi 8 anni frequenterà la St. Peter's Church of England School. Qui studia le regolari discipline scolastiche, coltiva la passione per gli sport e naturalmente quella per le arti e in particolare per la musica. Aveva già iniziato a prendere lezioni di pianoforte a Zanzibar quando ancora abitava coi genitori. Qui alla St. Peter's ha l'occasione di perfezionare sempre più la tecnica. Ma le lezioni di piano non sono l'unica occasione in cui Farouk può esercitare la sua passione per l'universo delle 7 note. Insieme ad alcuni compagni di classe ha deciso di fondare una band, gli Haptics. È in questo contesto che tutti gli amici iniziano a chiamarlo semplicemente Freddy, il primo timido passo verso un futuro grandioso. Io non sarò una rockstar, no, io sarò una leggenda. Gli Haptics si esibiscono appena ve ne è l'occasione, davanti ai compagni, nelle aule della St. Peter's School. Non esattamente un'arena per concerti, insomma. La St. Peter's, del resto, è un luogo attaccato alle tradizioni e all'etichetta, immutabile da decenni, pieno di regole ferree, irremovibili, come solo un collegio maschile nell'India post-coloniale può essere. È strano, addirittura surreale, pensare a come un ambiente ancora così strettamente legato a una rigida idea di disciplina abbia sfornato uno degli uomini più originali del pianeta. Un concentrato di talenti spiccati, multiformi. Può darsi che l'originalità sia connaturata alla sua indole, o forse si è sviluppata per contrasto con l'ambiente che lo ha circondato durante gli anni delicati dell'adolescenza. Fatto sta che quando Freddy torna a casa dai genitori nei primi anni 60, è un ragazzo completamente nuovo. Del timido bambino di Zanzibar non resta quasi nulla e le novità al suo rientro non sono di certo finite. Nel gennaio del 1964 a Zanzibar scoppia una violenta rivoluzione. Ibal, Sara lasciano il paese, si trasferiscono di corsa in Inghilterra lasciandosi tutto alle spalle. La madre di Freddy ricorda con angoscia quei momenti. It was very frightful. Avevamo molta paura, quel che stava succedendo era spaventoso. C'era un sacco di gente in giro per le strade, non si sapeva bene che cosa fare, dove andare. Noi avevamo 2 figli, eravamo ancora giovani, potevamo rifarci una vita altrove, dovevamo prendere una decisione. E così abbiamo lasciato il paese. I Balsara si trasferiscono in un sobborgo di Londra e più precisamente a Feltham, non lontano dall'aeroporto di Heathrow. L'intera famiglia si deve presto abituare a uno stile di vita ben diverso da quello che conduceva a Zanzibar. Niente servitù, niente agi, tanto per cominciare. Freddy, anziché essere abbattuto dall'idea di dover stravolgere il suo stile di vita, è genuinamente entusiasta. Si rimbocca le maniche e si trova immediatamente qualche lavoretto saltuario, ad esempio come magazziniere. I colleghi lo prendono in giro, gli dicono che ha le mani troppo aggraziate per fare quel mestiere. Lui risponde che sì, è vero. Difatti lui, da grande, non farà il magazziniere. Farà l'artista. I want to break free. I want to break free from your lies, you're so È vero che Freddie farà l'artista, ma non per questo abbandona gli studi, anzi. Prima frequenta la scuola d'arte all'Isleworth Polytechnic di West London, poi si laurea in graphic design all'Ealing Art College. Uno studente modello, non c'è che dire. Un giovane appassionato d'arte in qualunque sua forma, un ragazzo poco più che ventenne che verso la fine degli anni 60 sta per essere travolto come un ciclone dal fermento della scena artistica e musicale di Londra. Hey, Joe. Where you going with that gun of yours? Hey, Joe, I said, where you going with that gun of your head? Quando nel 1967 Jimi Hendrix irrompe con prepotenza nelle orecchie degli ascoltatori inglesi, Freddie diventa subito un suo fervente ammiratore. Lo testimoniano numerosi ritratti e schizzi del suo beniamino appesi un po' ovunque alle pareti dell'appartamento di Kensington dove si è trasferito da poco. La scelta di quel particolare quartiere, oltretutto, non è affatto casuale. Kensington è il quartiere degli artisti, è il luogo dove abita e bazzica la gente che conta, dove si possono trovare la famosa boutique Biba e il Kensington Market, dove nascono e crescono le mode e le tendenze. In tutto questo fermento, Freddie sguazza più non posso. All'Ealing College, poi, ha avuto la fortuna di conoscere un certo Tim Staffel, che per diletto fa il bassista in una band, gli Smile. Gli capita di andarli a sentire e si ricorda la meravigliosa sensazione di quando a scuola in India saliva sopra un palco con gli Hectics. Il ricordo di quel piccolo assaggio di brivido da palcoscenico gli basta per tornare a desiderare con tutto se stesso di salirci al più presto. Essere membro di un gruppo diventa la sua massima aspirazione. Come ricorda sua madre, Jer. Mi aveva parlato di questa cosa. Mi diceva che molte persone che avevano frequentato la scuola d'arte poi erano finite a fare musicisti. Insomma, io lo stavo ad ascoltare, ma non è che dessi troppo peso alla faccenda. Dicevo, vedremo. Era talmente bravo a dipingere che pensavo fosse solo un vezzo. Freddie invece fa sul serio. E come se fa sul serio? Nel 1969, dopo un provino, entra a far parte degli Ibex, formazione a cui manca un vero e proprio cantante. In compenso, Freddie invece ha una gran voce e possiede un'estensione vocale amplissima, decisamente fuori dal comune, solo che ancora non sa bene come usarla e come dosarla. Questa versione di Jailhouse Rock, celebre hit di Elvis Presley del 1957, riproposta live dagli Ibex, mostra tutti i limiti delle prime performance vocali di Freddie. Non per questo lui si perde d'animo. Sa di avere una grande voce e sa di poterla migliorare. Quello che conta è l'esercizio. Quello che conta è continuare a esibirsi fino allo sfinimento, fino a quando non avrà migliorato drasticamente la sua tecnica. Ma la vita da aspirante rockstar non paga, da un punto di vista economico. E allora ben vengano i lavori saltuari, magari in combutta con qualche amico musicista. Nell'estate del 1969, Freddie rileva una bancarella del Kensington Market dove venderà vestiti usati insieme a Roger Taylor, il batterista di quella band che gli ha fatto tornare la voglia di salire sopra un palco, gli Smile. Degli Smile, Roger è il cofondatore insieme a Brian May, un abilissimo chitarrista capellone. Qualcosa dice a Freddie che questi sono incontri fondanti, incontri che cambieranno per sempre il suo destino. Si tratta solo di un sentore, di una sensazione per il momento, ma almeno a giudicare dall'esterno, il futuro di Freddie sembra essere già scritto. Lui viveva un po' tutto nel suo mondo e si comportava già come una star. Si vestiva in maniera insolita, a volte addirittura sfacciata. Era una specie di attrazione locale. Impossibile non notarlo, non passava certo inosservato. Queste le parole di Brian May, il chitarrista capellone degli Smile. Brian sa della smania di Freddie di ritornare al più presto su un palcoscenico dopo la breve ma inconcludente esperienza negli Ibex. Freddie non demorde. Risponde a tutti gli annunci che trova sui giornali locali, tempestando di chiamate chiunque abbia espresso l'intenzione di cercare un cantante per la propria band. Alla fine del 1969 fa uno strepitoso provino vestito con stivaloni e un cappotto di pelliccia bianca per diventare il frontman di un gruppo chiamato Sour Milk Sea. Non dura molto. Dopo soli 2 mesi, il proprietario di quasi tutte le attrezzature con cui suonano i Sour Milk Sea decide di mollare tutto, sciogliere la formazione e rivendere baracca e burattini, chitarre e batteria. Freddy tenta con rammarico la strada del grafico. Non che non gli piaccia disegnare, ma fare l'illustratore non è la sua massima aspirazione. La vita è in balia di un'agenzia, le consegne da rispettare, le scadenze non fanno proprio per lui. Freddy non è tagliato per una vita normale. Freddy è decisamente larger than life, come si suol dire. Era molto timido, o almeno lo era stato, e usava già tutta quella serie di trucchi che lo racchiudevano dentro il suo personaggio come un bozzolo. Era sempre sopra le righe. Ormai non riesce a stare più di una settimana senza salire su un palcoscenico. In mancanza di alternative, Freddy decide di fondare un nuovo gruppo tutto suo, insieme ad alcuni amici e a un ex membro degli Ibex. La nuova formazione si chiama Wreckage, Disastro. Un nome non troppo propizio. Il gruppo esordisce dal vivo all'inizio del 1970 in una serata all'Ealing College of Art, scuola frequentata da Freddy, dove può contare su uno zoccolo duro di amici e fan. A sentirlo quella sera ci sono gli ex compagni di studi e gli amici del Giro di Kensington, pronti a dare il loro sostegno morale e a spellarsi le mani a furia di applausi. Tra il pubblico non mancano nemmeno i membri degli Smile, Brian May e Roger Taylor. I due osservano ammirati la performance di Freddy, ma nutrono nei suoi confronti ancora dei dubbi. All'inizio non l'ho preso tanto sul serio. Era sempre sopra le righe, si vedeva che era un artista senza dubbio, ma io non sapevo se fosse un musicista. Ecco, per lui la musica sembrava uno dei tanti hobby. Naufragata ben presto anche l'esperienza dei Wreckage, Freddy propone a Brian e Roger di unirsi a loro. Il cantante degli Smile, Tim Staffel, infatti, ha deciso di lasciare la band. Agli Smile serve una voce. Freddy potrebbe essere perfetto nel ruolo di frontman. Brian May non è troppo sicuro, però. Io e Roger sapevamo che come personaggio da vedere sul palco era imbattibile, ma non eravamo affatto sicuri delle sue abilità musicali. Era difficile allora focalizzarsi sulle potenzialità tecniche del suo modo di cantare. Brian May e Roger Taylor, comunque, vengono conquistati dall'impeto e dall'irruenza creativa di Freddy. Certo, musicalmente è meno preparato di loro. Al piano se la cava bene, ma con la chitarra strimpella o poco più. La sua voce, poi, sembra un gioiello unico e raro, ma ha decisamente bisogno di essere sgrezzata. Però nel complesso, tutto sommato, Freddy sembra essere una buona scommessa. Brian e Roger lo accolgono nella band, ripromettendosi di macinare prove e concerti a più non posso. Il sogno di Freddy, di calcare in tutto il suo splendore teatrale le assi di un palcoscenico, è tornato ad essere reale. E non ci vorrà molto perché da reale quel sogno si trasformi in regale. She keeps Moe Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. I magnifici destini. Il magnifico destino di Freddy Bulchara sta per compiersi grazie all'incontro con Brian May e Roger Taylor, fondatori della band Smile, che accettano di farlo entrare nel gruppo insieme a loro nonostante le reticenze iniziali. Freddy saprà dare agli Smile quel tocco in più che gli manca, quel guizzo di follia da palcoscenico che solo un mattatore nato come lui può inventarsi. Mi ricordo che ci fu una volta in particolare, una volta in cui venne a sentirci. Eravamo ancora io, Tim Staffel e Roger. Freddy si presentò a quella serata, non mi ricordo dove fosse, ma non è importante. Lui veniva spesso a sentirci un po' dovunque, era un nostro fan. Quella sera mi disse, è tutto magnifico, la musica, l'uso delle luci, il modo in cui sapete creare l'atmosfera e tutto quanto, però non vi rivolgete al pubblico nel modo giusto. Dovete essere più teatrali, esagerati, dovete connettervi con loro. Brian May e Roger Taylor pensano che Freddy possa davvero aggiungere quel che manca alla loro formazione in modo da farla finalmente decollare. Sono stanchi di relegare le ambizioni musicali in un cassetto. Brian è un dottorando in astrofisica. Roger ha studiato per diventare un dentista. E Freddy potrebbe dedicarsi a un'eventuale carriera come graphic designer e illustratore. Ma nessuno dei tre ha intenzione di perseguire queste vie. Vogliono fare musica e basta. Serve tutto l'impegno possibile per ottenere lo scopo. E serve anche un nuovo nome per la band. Brian e Roger propongono The Grand Dance, in omaggio a un libro dello scrittore inglese C.S. Lewis. Roger ha suggerito anche The Rich Kids, ma Freddy è decisamente perplesso. La sua proposta invece è molto più semplice, breve e diretta. Queen, un nome facile da memorizzare, immediatamente evocativo, supportato da un innato carattere di drammaticità e regalità insieme. Un nome magico, essenziale, perfetto. Il 27 giugno 1970, in un'aula del municipio di Truro, in Cornovaglia, sulla punta all'estremo ovest dell'Inghilterra, si esibiscono per la primissima volta i Queen. Sui manifesti c'è ancora scritto Smile. Non c'è stato il tempo di cambiarli, ma non importa. L'esibizione si apre con un pezzo riesumato dal repertorio dei Wreckage di Freddy. Lui è nervoso, agitato per quel battesimo epocale. L'ansia generale è parzialmente mascherata dai vistosi abiti di scena indossati da Freddy e dagli altri membri della band. Hanno costumi di seta bianchi e neri, portano molti anelli e bracciali. Un'assoluta novità, in un'epoca in cui le band si presentano sul palco per lo più in jeans e maglietta. I Queen sanno distinguersi fin dai loro esordi. E il merito di questa peculiarità va praticamente tutto a Freddy, che dopo aver scelto il look e il nome perfetti per la sua band, decide anche di cambiare il proprio. La sua sarà una sorta di nuova rinascita. Bulshara, dopo tutto, non è un brutto cognome, ma di certo non è uno di quelli che si addicano a una futura celebrità. Serve qualcosa di più evocativo. Mercurio, il mitologico messaggero degli dei, potrebbe fare al caso suo. Scrisse questa canzone che poi finì nel nostro primo album. Si chiama My Fairy King. E c'è un verso che dice: «Oh madre Mercury, che cosa mi hai fatto?» E dopo averla scritta mi disse: «Beh, io in effetti sto per trasformarmi in Mercury. La madre della canzone è mia madre e io sto per diventare Mercury». E insomma, abbiamo pensato tutti che fosse pazzo come al solito. E invece, come al solito, non era affatto pazzo. Era serissimo. E zitto zitto ha cambiato il suo nome in Freddie Mercury. In the land where horses born with eagle wings and honeybees have lost their stings, they're singing forever. Yes. With fallow deer and rivers made from wine so clear, flow on and on forever. Dragons fly like sparrows through the air. Baby lambs were Samson dressed in the morning. Freddy è inarrestabile. Non solo ha scelto il nuovo nome e il nuovo look della band, ma decide anche di disegnarne personalmente l'emblema, il logo, qualcosa che il pubblico possa associare al nome Queen su un piano puramente visivo. La sua idea si incentra sui segni zodiacali dei quattro componenti del gruppo. Freddy, forte dei suoi studi d'arte, disegna con sicurezza due leoni che reggono una lettera Q completa di corona con accanto un granchio e due fate. Il tutto è dominato da una grande fenice, simbolo di speranza, che esemplifica i sogni e gli ideali che Freddy ha riversato nel comune progetto musicale. Ora che i Queen hanno anche un simbolo, non resta che mettere insieme abbastanza canzoni da riversare al più presto in un album. Sono le 4 del mattino di un giovedì dell'ottobre 1972. I Queen, ovvero Brian May, Roger Taylor e Freddie Mercury, cui si è aggiunto già da diverso tempo l'abile bassista John Deacon, stanno registrando i pezzi del loro primo album in una sala di registrazione dei Trident Studios di Londra, al numero 17 di St. Anne's Court, nel quartiere di Soho. Perché mai registrare alle 4 del mattino? Forse perché gli artisti sono creature bizzarre ed eccentriche che scambiano facilmente il giorno per la notte? Beh, no. La motivazione è molto più semplice. I Queen registrano di notte perché tutto quello che il loro produttore è riuscito a ottenere dai proprietari della sala d'incisione è l'utilizzo dei loro spazi e delle loro attrezzature nei tempi morti. ovvero quando non vi sia già impegnato qualche altro artista più famoso e più economicamente soddisfacente. I Queen sono agli inizi della loro carriera discografica. Non possono certo permettersi di tirar fuori un mucchio di soldi per incidere le tracce. In ogni caso, il disco, registrato un po' a spizzichi e bocconi durante lunghe sessioni notturne, è un ottimo prodotto. Il 13 luglio 1973 esce il primo, omonimo album dei Queen. 5 delle 10 tracce contenute nell'album sono scritte interamente da Freddie. È l'inizio di un'ascesa inarrestabile, un primo glorioso passo salutato con entusiasmo dalla critica di mezzo mondo. L'album è salutato in questo modo dal magazine Rolling Stone. Non c'è alcun dubbio che questo quartetto inglese, pieno di energia, abbia tutte le carte in regola per reclamare il trono del heavy metal, nel caso in cui le Zeppelin, per qualche ragione, lo lasciassero vacante. E al di là di questo, comunque, i Queen hanno le potenzialità per diventare, senza ombra di dubbio, una delle forze in gioco più potenti ed influenti dell'intero panorama rock. Il loro album di debutto è semplicemente superbo. Ormai appare evidente a chiunque. Quella dei Queen e del loro straordinario frontman Freddie Mercury è una leggenda che sembra destinata a durare a lungo. Il loro mix azzeccatissimo di progressive rock, teatralità, heavy metal e instancabili invenzioni conquista rapidamente i cuori di milioni di fan. I Queen, affiatatissimi tra l'inizio degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, pubblicano insieme una decina di album. Hot Space, disco del 1982, segna un breve momento di crisi all'interno della band, oltre che un parziale cambio di rotta verso sonorità più elettroniche e meno elettriche, più pop e meno rock. La disco music entra prepotentemente nell'immaginario musicale di Mercury, certamente influenzato anche dal luogo in cui si trova a vivere in quegli anni, Monaco di Baviera, in Germania. Monaco, infatti, è una città che si trova storicamente al centro della cultura disco. Qui, alla fine degli anni 60, lo storico produttore Giorgio Moroder ha fondato i Musicland Studios e proprio in quegli stessi studi, giusto qualche anno prima, ha inciso insieme a Donna Summer uno dei pezzi disco più celebri di sempre. E proprio lì, ai Musicland Studios di Monaco, lo stesso luogo dove i Queen hanno inciso parte del loro ultimo album, che Freddie Mercury incontra il padrone di casa, il grande Giorgio Moroder. Freddie, in questo particolare momento della sua vita, e dopo oltre 10 anni di vita in completa simbiosi con gli altri membri dei Queen, decide che è giunto il momento di dedicarsi a qualche progetto solista. Moroder gliene offre la possibilità su un piatto d'argento. Sta lavorando alla riedizione della colonna sonora di Metropolis, storico film di fantascienza girato da Fritz Lang nel 1926. L'idea del produttore italiano è quella di creare una soundtrack moderna da accompagnare a un'opera cinematografica ormai antica, ma decisamente carica di premonizioni e intuizioni sul futuro. Sarebbe perfetto se Freddie Mercury prestasse voce a quel progetto, e Freddie di certo non se lo fa ripetere 2 volte. I magnifici destini. Nel 1983, ai Musicland Studios di Monaco di Baviera, Freddie Mercury, in pausa temporanea dai suoi Queen, lavora all'ambizioso progetto di Giorgio Moroder di riscrivere la colonna sonora di un classico della storia del cinema. Nel 1926, il famoso regista Fritz Lang ci ha mostrato uno scorcio sul futuro oscuro ed inquietante. Ora, il vincitore del premio Oscar, Giorgio Moroder, è finalmente riuscito a portare a termine un progetto che gli stava a cuore da molto tempo. Una ricostruzione della pellicola classica di Lang, arricchita da una colonna sonora creata su misura e realizzata in collaborazione con i migliori artisti in circolazione. Giorgio Moroder presenta il capolavoro di Fritz Lang Metropolis. Metropolis. Mercury, in questa particolare fase della sua carriera, è ansioso di partecipare a progetti che esulino dal percorso seguito fino a quel momento con i Queen. Questo non significa affatto che Mercury abbia intenzione di lasciare la band, tutt'altro. La sua ferma volontà di pubblicare un album solista è semplicemente sinonimo, nonché diretta conseguenza, di un fermento creativo costante e inestinguibile. Nel 1985 finalmente il suo disco, Mr. Bad Guy, Signor Ragazzo Cattivo, vede la luce. Tutti non fanno altro che chiedermi perché ho quest'ansia di fare cose. Hai raggiunto praticamente qualunque traguardo, fermati, no? Ma il punto è che io non ho nient'altro da fare nella mia vita. Non saprei cos'altro fare, cosa faccio? Divento uno chef? Non so cucinare. Potrei anche smettere di fare quello che faccio e godermi i miei soldi, ma non sono il tipo. Mi piace lavorare, altrimenti mi annoio terribilmente. C'è un verso in Living on My Own, brano tratto da Mr. Bad Guy, che dice più o meno: mi sento così disperatamente solo. Dovranno prima o poi arrivare dei tempi migliori. Sembra quasi un grido di richiamo di Freddie nei confronti della sua band, temporaneamente abbandonata per seguire progetti eterogenei. Il 1986 vede i Queen di nuovo insieme, completamente immersi nella preparazione del materiale per la colonna sonora del film Highlander. Nello stesso anno esce anche A Kind of Magic, disco che segna il rientro della band in piena attività. Freddie ormai è inarrestabile sotto tutti i fronti, sia nel lavoro in studio con la band, così come nella vita privata, governata da sregolatezze e follie di ogni sorta. Gli echi leggendari dei suoi party sfrenati giungono intatti sino ad oggi. Freddie non era certo un uomo che amava risparmiare né tantomeno risparmiarsi. Anche sul fronte della carriera solista, Mercury sente di non avere ancora concluso appieno l'esperienza. Dopo il battesimo elettronico con Marauder, quello che gli manca è giusto un'incursione nella lirica. Detto fatto. Quando sono entrata in quella stanza e gli ho stretto la mano, lui aveva le mani così, così fredde. Anch'io avevo le mani gelide. E ho pensato, ecco, ho trovato uno più emozionato di me, che poi è un segno positivo quando in questi casi le persone sono molto agitate. Significa che si aspettano qualcosa l'una dall'altra. C'era un pianoforte lì, nell'angolo. Lui si mise a suonare. Io iniziai a cantare. Semplice. Come fosse la cosa più naturale del mondo. Avremmo potuto andare avanti per ore ed ore. Alla fine ci siamo guardati negli occhi. Ed è stato lì che ho capito. Lui mi aveva conquistata. La voce che avete appena sentito è quella di Montserrat Caballé, noto soprano spagnolo con cui Freddie Mercury, da sempre amante dell'opera, fa di tutto per collaborare. Il risultato del sodalizio fra Freddie e la Caballé è un album Barcelona che mescola in un unico prodotto gli incredibili talenti vocali dei due partecipanti. L'omonimo singolo di lancio nel 1992 sarà l'inno perfetto per accompagnare lo svolgimento delle Olimpiadi che hanno luogo proprio a Barcellona, la splendida città spagnola in cui è nata la stessa Caballé. Freddie spinge ancor più in là le sue possibilità canore senza paura degli strali della critica. Un album intero che mixa in modo inestricabile pop, rock e opera lirica. Perché no, dopo tutto? Del resto è stata proprio Montserrat a volerlo. Ho pensato che potevamo fare insieme una canzone, un duetto, una cosa così. E lei dice, ma come, una canzone sola? E io rispondo, insomma, vediamo se ti piace la mia musica, se ti trovi bene a lavorare con me. A quel punto mi chiede quante canzoni ha normalmente un disco di musica rock. Io le rispondo, all'incirca 10. E lei, bene, faremo 10 canzoni allora. Incredibile! Il lavoro con i Queen, intanto, prosegue alacremente, nonostante le condizioni di salute di Mercury dal 1988 in poi peggiorino di giorno in giorno. All'uscita di The Miracle, segue nel 1991 Innuendo, ultimo disco della band al completo, che contiene la struggente The Show Must Go On, quasi un testamento di Freddie. Lo spettacolo deve continuare con o senza di lui. Fiaccato da una polmonite, sopraggiunta in conseguenza all'indebolimento generale del fisico causato dall'AIDS, Freddie Mercury muore a Londra nel novembre del 1991, a soli 10 mesi dall'uscita di Innuendo. Ha lavorato senza sosta, fino all'ultimo. So che arriverà un giorno in cui smetterò di agitarmi come un pazzo su e giù da palcoscenico. Certo, è ovvio, ad un certo punto se continuassi a farlo sarei ridicolo, credo. Ma la musica quella no, no, non smetterò di farla. Magari farò il produttore, magari scriverò canzoni restandomene in ciabatte a casa. Può darsi che uno a una certa età non abbia più il fisico, ma chi dice che per questo non sia più capace di scrivere canzoni? Quindi, in un modo o nell'altro, la musica continuerà sempre a far parte della mia vita. La sua musica, di fatto, continua a far parte delle nostre. Certo, avremmo preferito che le cose fossero andate diversamente e che nel 2013, in occasione del 40° anniversario dal debutto discografico della band, uscisse l'ennesimo disco dei Queen, composto da canzoni cantate da un Freddie Mercury ormai imbalsito, scritte restando in vestaglie e ciabatte nella sua bella casa con giardino a Earl's Court. Una cosa è sicura, almeno. Se Freddie non è riuscito ad essere immortale, non c'è dubbio sul fatto che la sua musica ci sia riuscita. E come?